24 mattino di Alessandro Milan. Siamo qui alle 7:22 minuti, cari ascoltatori, eccoci. Allora, siamo pronti in diretta fino alle 9, siamo anche su Facebook 24 mattino, siamo anche su Twitter @24mattino, lì ci sono anch'io @AlinoMilan. E vedo già pronti Carmelo Lauricella in regia, beh, già sveglio. Alessandro Longoni là in redazione, che è pronto. Avremo ospite Flavio Tosi, il sindaco di Verona. Oggi, tra due giorni, la Lega deciderà chi è il futuro leader. Maroni? Beh, penso proprio di sì. E poi parleremo del caso Cammarata. Si è dimesso, l'ex sindaco di Palermo non farà il consulente al Senato. Noi non l'avremo ospite, ma avremo ospite il senatore Cicolani, che lo ha chiamato al Senato, voleva avvalersi delle sue capacità di tagliare. E con annesse polemiche, dice, ma come, quando è stato sindaco di Palermo ha fatto dei buchi clamorosi, lui contesta questo, ma comunque ne parleremo più avanti. Ora andiamo a vedere i giornali in edicola. Giornali che sono tutti declinati nei titoli sul vertice europeo, quasi tutti. Antispread, ultimatum di Monti, questa è l'apertura del Sole 24 Ore. Per il Corriere della Sera invece la carta italiana in Europa. Repubblica, Hollande e Merkel, ora più Europa. La Stampa, Euro, l'ultimatum di Monti. Il Messaggero, Europa, la sfida di Monti per avvenire nell'euro vortice. Ecco, questi titoli sull'apertura del vertice. Poi, beh, c'è la polemica sul ministro Fornero, no? Quello che ha detto al Wall Street Journal, che poi sentiremo, la frase precisa. Un ministro incostituzionale, titola l'Unità, mentre il Manifesto non ha diritto. Vabbè, questi sono alcuni dei titoli, altri li vedremo più avanti, aprono su altri temi, ma voglio subito andare a leggere qualcosa dai giornali. La prima storia che vi propongo è di Emanuele Lauria, di Repubblica, in prima pagina. Io lo vorrei avere ospite tantissimo, è considerato, la sua storia era già approdata sui giornali in passato. Ex super dirigente della Regione Sicilia, lo scandalo del pensionato d'oro. Da 500.000 euro, rivoglio i miei 1.400 euro al giorno. È la storia di Felice Crosta, che è un gran commis di Stato della Regione Sicilia. La vicenda è raccontata appunto da Emanuele Lauria su Repubblica. Si è aggrappato a un cavillo per non perdere la sua pensione da favola, recuperare un assegno di quiescenza che sfonda qualsiasi tetto di compensi pubblici in discussione in Parlamento e si fa beffe della spending review. Mezzo milione di euro l'anno, 41.600 euro al mese, 1.369 euro al giorno. E questa è la pensione di Felice Crosta, ultimo gran commis della Regione Siciliana, che quei soldi li vuole. È una vicenda un po' contorta, perché nel 2006 fu messo a capo dell'Agenzia dei Rifiuti, il presidente era Cuffaro della Regione Sicilia, un incarico che valeva oltre 460.000 euro l'anno. Crosta accettò la proposta, si dimise dopo pochi mesi, ma quell'indennità percepita per pochi mesi gli valse come base pensionabile in forza di una leggina che l'Assemblea regionale siciliana aveva varato pochi mesi prima, alla vigilia della sua nomina. Tra l'altro Lauria chiede, è un caso? Chissà. Sta di fatto che prendeva questa pensione, poi è cambiata la regione ha fatto ricorso e gli è stata tagliata la pensione, circa dimezzata, ma ora Felice Crosta fa controricorso, è andato in Cassazione contestando che la composizione del collegio che gli ha dimezzato l'indennità faceva parte di questa composizione anche un referendario non in veste di relatore, una cosa vietata dalla legge, un cavillo sul quale Felice Crosta ha fatto ricorso, e la storia è questa, lo scandalo del pensionato d'oro, rivoglio i miei 1.400 euro al giorno che mi avete dimezzato. La somma mi spetta. Questa è la storia che c'è su Repubblica. A proposito di Palermo, Sicilia e il caso Cammarata, come detto, noi avremo ospite il senatore Cicolani, uno dei tre questori del Senato che l'aveva chiamato per la consulenza. Beh, Cammarata ha rinunciato e scrive oggi una lettera pubblicata dal Corriere della Sera dopo l'articolo di Gian Antonio Stella ieri sul Corriere, i conti di Palermo e quell'incarico che ora lascio, la lettera di Cammarata, pagina 12, la trovate. Dice e scrive Cammarata: l'articolo di Stella è di quelli che vanno benissimo in un clima come quello che stiamo vivendo, che tiene conto di mezze verità, ambiguità, falsità, pur di dimostrare che la classe politica è una cozzaglia di corrotti, mafiosi, ladri, nella migliore delle ipotesi incapaci. Partiamo da un fatto: io non ho lasciato alcun buco nei conti del comune di Palermo. E poi Cammarata prosegue, insomma, la sua autodifesa. In ogni caso, dice, naturalmente ho assicurato al senatore Cicolani di completare la mia relazione senza colpenso alcuno, visto che mi ha chiamato, ma mi dimetto. Ovviamente avevo dato la mia disponibilità al senatore Cicolani di fare una ricerca su liberalizzazioni e privatizzazioni dei servizi pubblici locali, processi che da sindaco ho portato avanti. Però ho rinunziato, non tanto perché credo che questa vicenda abbia qualcosa di ragionevole, né tantomeno perché intendo cedere a pressioni di alcun tipo, ma francamente non credo sia il caso di passare per uno a cui si sta facendo un favore e far passare altri per quelli che me lo stanno facendo. La risposta di Gian Antonio Stella è questa: se è così, ci felicitiamo con l'avvocato per le brillanti condizioni in cui ha lasciato Palermo, evviva! E poi risponde Stella: ma solo per curiosità, il comune non è l'unico azionista delle municipalizzate, non è chiamato a nominare i vertici, accettare i bilanci, perché non ne ha mai bocciato uno? Questo è l'inizio della risposta di Gian Antonio Stella. Insomma, una sfida vera e propria, un duello in punta di penna. Sta di fatto che Cammarata ha rinunziato a questo incarico per cui l'aveva chiamato il senatore Cicolani, ci spiegherà perché aveva puntato proprio a lui. E vabbè, materia di casta anticasta. Materia di casta anticasta, vi ricordate che abbiamo avuto, a proposito di Palermo, il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, che non si è ancora dimesso, io lo devo dire. Ieri, tra l'altro, qualcuno non si è ancora dimesso, dopo che è stato eletto sindaco di Palermo, dalla Camera. Lui ci ha detto, qui ai nostri microfoni ha detto, che si dimetterà quando sarà insediato il Consiglio Comunale, e allora solo in quel momento, per la legge regionale siciliana, lui sarà formalmente sindaco. C'è da dire che, insomma, tempi palermitani per questo insediamento del Consiglio Comunale. Quando ci sono state le elezioni a maggio, non si è ancora insediato il Consiglio Comunale, e infatti è quello che dovrebbe subentrargli alla Camera, Giuseppe Vatinno, scalpita e dice: ma come mai non si insedia questo Consiglio Comunale? Qualcuno ieri gliel'ha anche urlato in faccia, Orlando, che si è presentato alla Camera: vergogna, dimettiti, che ci fai qui? Sta di fatto che Luca Orlando risponde: non c'è alcuna polemica, non lo vedo, il 9 luglio, dunque, cari ascoltatori, c'è una data, il 9 luglio si insedia finalmente il Consiglio Comunale del Comune di Palermo, e in quella data Luca Orlando ha detto, come ho ampiamente detto e ridetto e come ho già comunicato alla Giunta per l'elezione della Camera, io quel giorno, il 9 luglio, mi dimetto dalla Camera. Stiamo a vedere con pazienza. Allora, oggi si apre il Consiglio europeo, il Consiglio che deve salvare l'euro, l'eurozona. Devo dire che almeno con gioia saluto il fatto che i giornali italiani non hanno più fatto titoli strampalati usando metafore calcistiche, mettendo Italia-Germania, Italia-Germania di calcio, e con l'Italia-Germania il Consiglio europeo, facendo titoli davvero da rabbrividire. Forse perché la questione è ben più seria di una partita di calcio. Sta di fatto che allora Mario Monti si è presentato e si presenta, pare agguerrito, a Bruxelles, a questo Consiglio europeo, con un vero e proprio, possiamo dire, ricatto, cioè ricatto nel senso per mantenere forte il punto, no? Nei confronti di Angela Merkel, che ancora ieri ha ribadito gli Eurobond, no, assolutamente. E allora Mario Monti, che ha detto la Tobin Tax solo con l'antispread, e la proposta antispread, cioè l'utilizzo del fondo salva stati per comprare titoli di quegli stati che arrivano a un certo livello di spread, oltre il quale il fondo salva stati può acquistare titoli di stato dei paesi ovviamente virtuosi, quelli che poi rispettano, fanno le riforme, fanno i compiti a casa. Questa è la proposta di Mario Monti. E allora Mario Monti ha detto: non volete accettare questa proposta, e io non accetto l'idea della Tobin Tax. Gerardo Pelosi, a pagina 2, il messaggio del professore è semplice: l'Italia non darà il via libera alla cooperazione rafforzata sulla Tobin Tax, un sistema d'accordo per il quale è sufficiente il consenso di 9 Stati membri, se non ci sarà anche per altri aspetti come la politica finanziaria di gestione del mercato dei titoli sovrani. Insomma, Monti torna alla carica su questa necessità di trovare un meccanismo dal fondo salva Stati o dalla BCE che consenta ai paesi che hanno approvato il fiscal compact e avviato riforme strutturali di finanziare il loro debito a tassi non eccessivamente gravosi. O fate questo, questa è la nostra proposta sul tavolo, noi non facciamo qualcos'altro sulla Tobin tax. E beh, è un bel braccio di ferro, un bel punto di partenza anche di contrasto, però staremo a vedere chi sarà il vincitore, come andrà a finire questa vicenda. Certo, per Repubblica Berlino non chiude la porta, questo è l'articolo di Alberto D'Argenio a pagina 3, martedì notte Vittorio Grilli ha portato un messaggio di speranza più atteso, vale a dire Schäuble, cioè il ministro delle finanze tedesco, ha dato non un consenso, ma si è dimostrato pronto a discutere sulla stabilizzazione dei mercati, e questo era il segnale, dice Repubblica, che Mario Monti attendeva per lanciare appunto questa sfida e dire allora la partita è aperta, ce la possiamo giocare con le nostre proposte a livello europeo. Se volete leggere, giusto per documentarvi, La Stampa pagina 7, che cosa è in gioco, i 5 temi sul tavolo del Consiglio europeo, il vertice tradotto sulla sfiducia dei mercati, l'unione bancaria, l'unione di bilancio, l'unione politica, i parlamenti, trovate qualche dettaglio in più, perché poi da questi vertici magari si parla anche di cose molto molto tecniche, ipertecniche, che poi vanno tradotte in cose concrete. Allora La Stampa ci prova in questa pagina che trovate a pagina 7, quali sono i temi sul tavolo di questo vertice molto molto importante. Ora, questo è, diciamo, la pretattica e le schermaglie e le posizioni prima del vertice. In realtà, secondo sempre Repubblica, un Mario Monti che ha fatto la voce grossa, dice portiamo avanti questa linea. È pronto anche, secondo indiscrezioni, a portare avanti il vertice fino a domenica, ma in realtà c'è un piano B, lo vogliamo chiamare così? Beh, Monti mette in allerta i ministri, dovete essere tutti reperibili domenica. Questo è il titolo di Repubblica, pagina 6, Francesco Bei racconta prepararsi al peggio. Con questa parola d'ordine il premier è partito ieri alla volta di Bruxelles per la battaglia più difficile dal giorno del suo ingresso a Palazzo Chigi. Vigilia di trattative in Europa che lo induce a un moderato ottimismo, ma la responsabilità è quella anche di prevedere e prepararsi a un esito fallimentare del vertice europeo, e per cui ha detto intanto ai ministri: vi prego di essere tutti reperibili, nessuno lasci Roma nel weekend. Non si sa mai, dovesse riunirsi un consiglio dei ministri per prendere magari decisioni d'urgenza dopo il vertice. C'è da dire che già è previsto un Consiglio dei Ministri importante lunedì con i tagli, la spending review, eccetera, ma non è escluso che ci sia questa anticipazione. Mettiamo il caso il vertice vada non per il verso giusto, vada male, sia fallimentare, eccetera. Allora la possibilità di fare un vertice straordinario, un Consiglio dei Ministri straordinario anticipato alla domenica, in modo da prendere delle misure, delle contromisure, dei provvedimenti, perché poi si sa, il Dio borse attende lunedì alle 9, tac, l'apertura, e quindi l'idea è quella di cercare di prendere le contromisure nel caso, prima dell'apertura delle borse, finito il vertice europeo. Quindi non è esclusa anche questa opzione, secondo Repubblica, intanto Monti ha detto ai ministri state tutti pronti, anche al peggio prepariamoci eventualmente domenica. Ieri è stata una giornata importante per l'approvazione della riforma del mercato del lavoro. Trovate per esempio sul Sole 24 Ore un inserto di 12 pagine, la riforma del mercato del lavoro tutta spiegata punto per punto, il testo e poi le spiegazioni, cosa cambia, sull'articolo 18, i contratti, la riforma ora è legge. E questo è il punto più importante, cioè io mi aspettavo, tutti i giornali parleranno di questo aspetto della riforma del mercato del lavoro. Il Sole 24 Ore giustamente fa intanto questo lavoro per spiegare le cose, no? 12 pagine di inserto, le trovate, eccetera, gli articoli. C'è l'aspetto politico, c'è Di Pietro che già tuona, l'avete sentito nel giornale radio, faremo un referendum per abrogarla. per abolirla. Questo è l'aspetto politico importante. E invece tutte le polemiche che trovate sui giornali, tutte con anche titoli di prima pagina, ne ho ricordati due per esempio: l'Unità, un ministro incostituzionale, o il Manifesto, non ha diritto. Tutti i giornali si sono concentrati su questa intervista che il ministro del lavoro Elsa Fornero ha fatto al Wall Street Journal, anche perché, detto per inciso, secondo qualcuno, lei stessa ha detto: tanto io i giornali italiani manco li leggo più, e quindi voglio parlare solo ai giornali internazionali, ai mercati internazionali, al mondo voglio parlare, perché i giornali italiani non li leggo. Ha fatto questa intervista, ha detto una frase che ha scatenato un putiferio di reazioni. La frase detta al Wall Street Journal: "A job isn't something you obtain by right, but something you conquer, struggle for, and for which you may even have to make sacrifices." Abbiamo perso almeno 100 ascoltatori di madrelingua inglese, me ne scuso, ma comunque, per chi sa l'inglese, per chi conosce l'inglese, vuol dire un posto di lavoro, non il lavoro come dice la Costituzione, ma un posto di lavoro non è un qualcosa che si ottiene per diritto, ma qualcosa per il quale devi lottare e fare sacrifici. Io sinceramente non trovo niente di scandaloso in questa frase. Cioè, ha detto un posto di lavoro non è qualcosa che ti cade sulla testa, no? Un qualcosa che uno ottiene per diritto. Non c'entra niente, a mio modo di vedere, in questa frase la messa in discussione della Costituzione, che dice che c'è un diritto al lavoro, non al posto di lavoro. Eppure questa frase è stata declinata appunto così: il lavoro non è un diritto. Questo è il titolo che troverete più gettonato sui giornali. Ecco, per esempio, Repubblica, La Fornero: il lavoro non è un diritto. Ma non è questa la traduzione, non è il lavoro, non è work, job, il posto di lavoro, che è un'altra cosa. Però ormai il danno è fatto, la gaffe è fatta, la traduzione forse sbagliata è fatta. Sta di fatto che c'è stato un impazzimento con questo dibattito. I titoli infatti li vedete: La Fornero, il lavoro non è un diritto. Anche Il Sole 24 Ore mette: il lavoro non è un diritto. Poi in realtà nel titolo a pagina 15, ma in realtà la frase in inglese che io vi ho letto è correttamente messa nell'articolo di Davide Colombo. Ecco, il Corriere invece sceglie questo titolo: il posto non è un diritto ma una conquista. Effettivamente job è il posto di lavoro, non il lavoro. Insomma, voi, si può dire che forse sono discussioni un po' capziose di lana caprina, però in realtà si è scatenato questo dibattito. Il premier Mario Monti ha detto piena fiducia al ministro Elsa Fornero. Ci sono anche dei giornali che invece la difendono. Carlo Lottieri, per esempio, sul Giornale titola pagina 3: altro che gaff della Fornero, il posto si deve conquistare. Oppure Libero: Elsa ne dice una giusta ed è il caos, mentre il Manifesto è durissimo, non ha diritto. Questo è il titolo di prima pagina. C'è il ministro Elsa Fornero, tra l'altro col dito indice, quello un po' puntato, un po' sulla bocca, quello che le è valso anche l'appellativo di maestrina, no? Al ministro Elsa Fornero. L'Italia, scrive Loris Campetti nell'editoriale di prima pagina del Manifesto, non è più una repubblica democratica fondata sul lavoro, non riconosce più a tutti i cittadini il diritto al lavoro, neppure promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Chi pensava che i voti di fiducia sulla controriforma del mercato del lavoro avrebbero colpito al cuore lo statuto dei lavoratori deve oggi prendere atto che la mucchiata parlamentare di ieri ha addirittura segato i pilastri su cui si regge la nostra Costituzione. Lo ha detto con la chiarezza che la contraddistingue Elsa Fornero, forse il peggior ministro del lavoro della storia repubblicana. Così il Manifesto. Poi questo ha dato adito anche non solo un dibattito politico, polemiche, l'attacco alla Costituzione, un ministro anticostituzionale, anche se, ripeto, se leggete la frase inglese, non ha detto che il lavoro non va garantito per diritto. Ma questo ha dato adito anche a un po' di ironia, comprensibile. Iena, sulla Stampa, pagina 3: posti, come si fa a guadagnarsi il diritto al posto di ministro? E Gene Gnocchi addirittura rompi pallone sulla Gazzetta dello Sport, qui gioca un po' di più sul tema e la polemica esodati. Oggi a Varsavia a sostenere gli azzurri ci saranno 20.000 tifosi, solo 3.000 per il ministro Fornero. Eccoci qua allora, un'altra polemica che è divampata sui giornali, anche su Twitter, credo che uno degli hashtag più utilizzati ieri fosse Cicchitto. Avete già capito, no? Le ferie dei parlamentari. Allora, questa frase di Cicchitto che ieri ho letto dicendo, ha contestato col ministro Piero Giarda, non potete ingolfare la Camera e metterci qui a lavorare il 13 agosto, se voi pensate di lavorare il 13 agosto la maggioranza non c'è più. Sacrilegio, toccate le ferie dei parlamentari. Oggi il capogruppo del PDL alla Camera, Cicchitto, fa due interviste, una al Messaggero e una a Libero, per dire, ma no, sono stato frainteso, eccolo qua al Messaggero con Mario Aiello. Non certo il problema è quello delle vacanze, ma il Parlamento che è intasato di lavoro, 13 decreti da convertire in legge, il governo ha espropriato il Parlamento, questo è il problema. Non c'è problema di lavorare anche dal lunedì al venerdì. Sentite questa frase, si lavorerà dal lunedì al venerdì, una cosa che per tutti gli italiani è normale, tutti. Invece Cicchitto dice si lavorerà sempre, dal lunedì al venerdì. E credo che le vacanze saranno brevissime. Vabbè, questo, cioè, bisognerebbe anche dire, fargli delle lezioni di comunicazione, perché dire una frase del genere, si lavorerà sempre, dal lunedì al venerdì. E voi, cari italiani, che fate da anni e farete per anni? Lavorate dal lunedì al venerdì, anche a volte anche 6 giorni su 7. In ogni caso, anche su Libero, Cicchitto, ma che ferie, il problema sono i troppi decreti, ho scatenato un'ira di Dio, ma sono stato totalmente frainteso con il ministro Giarda, non discutevo delle vacanze, il nodo non era quello delle ferie, ma dei decreti del governo in scadenza, sono 13, una cosa mai vista nella storia repubblicana. Si provoca un intasamento dei lavori parlamentari e chi si scandalizza per le mie parole si è reso conto che non c'è più spazio per la discussione di un provvedimento di iniziativa parlamentare? Un po' come era negli ultimi 2 anni, verrebbe da commentare. In ogni caso, anche l'onorevole Stracquadagno fa un'intervista al Quotidiano Nazionale sul tema. Certo, non diventa molto popolare, forse, quando dice... è chiaro che sale il malumore, Cicchitto ha aperto il vaso di Pandora, anche i parlamentari sono stanchi, il problema è sempre quello, troppi decreti eccetera. Io non è che ho detto che voglio le ferie, ho detto il contrario, il nostro non è un mestiere formale, non produciamo bulloni. Io pretendo di essere valutato non sulle ore di lavoro, altrimenti dovrei pretendere gli straordinari. Così Giorgio Stracquadagno, non pretendo di essere giudicato sulle ore di lavoro, altrimenti pretenderei gli straordinari. In ogni caso, il tema pare molto serio, anche Repubblica fa una pagina bufera sulle ferie dei deputati, Fini che dice se serve aperti anche ad agosto. Casini ha detto ma che, lavoriamo anche a Ferragosto. Io, in maniera un po' irriverente, ma non sono affatto un po' così, ho detto su Twitter, sembra un po' un trattato di paraculologia, perché insomma adesso dire siamo pronti a lavorare anche a Ferragosto di notte sembra un po' un voler rincorrere questa vena demagogica che un po' c'è in Italia. In fondo, su questo devo dire, Bersani ha detto la cosa forse più normale, dice stiamo passando il segno, queste cose mi preoccupano, lavoreremo ad agosto finché c'è da lavorare, ma abbiamo anche noi una famiglia, adesso non è che il politico effettivamente deve essere inchiodato alla poltrona a Ferragosto per chissà quale motivo. Sta di fatto che anche il giornale fa una pagina, ferie a rischio, i parlamentari in rivolta. Si occupassero invece di cose ben più serie, come mi scrive un ascoltatore giustamente via SMS, ci sono 3 articoli oggi su questo. Vi ricordate la vicenda dei 90 milioni, che è la metà della tranche del finanziamento pubblico ai partiti, che spetta ai partiti in quest'estate, che i partiti stessi avevano promesso daremo ai terremotati, e che per un cavillo c'è stato un errore tecnico, il governo dovrà ora porre rimedio, dovrebbe porre rimedio con un decreto ad hoc, altrimenti questi 90 milioni non si possono girare ai terremotati dell'Emilia e andranno quindi nelle casse dei partiti. Ebbene, ci sono tre articoli oggi. Uno su Repubblica, i soldi restano ai partiti, beffa per i terremotati, ormai il tempo sta scadendo, scrive in prima pagina Gianluigi Pellegrino. Mentre le tesorerie dei partiti, con poche significative eccezioni, non disdegnerebbero di incassare per intero la rata di luglio, la legge annunciata a suon di tromba segna il passo, è ormai quasi impossibile che venga approvata in tempo utile, visto che luglio ormai è alle porte. Anche su Il Fatto Quotidiano, tagli ai partiti, le solite boiate, la legge non è stata ancora approvata, il governo ha promesso un decreto che però non c'è e dunque i 91 milioni che sarebbero destinati ai terremotati dell'Emilia che stanno aspettando arriveranno, non arriveranno, o il governo fa un decreto ad hoc entro pare due giorni, oppure forse lunedì che c'è il Consiglio dei Ministri, forse ce la fanno. Anna Finocchiaro promette, in realtà ci sono ancora i tempi tecnici, ma bisogna agire, altrimenti questi soldi vanno ai partiti. Quanto ho ancora? Un minuto, mi pare di capire? In un minuto vi voglio segnalare due giornali, voi dovreste prenderli, Il Libero e Il Fatto Quotidiano, e metterli comparati, prendere le prime pagine, e succede questo. Su Libero, titolo di prima pagina, Silvio vittima della mafia. Maurizio Belpietro fa un'intervista di due pagine al PM più discusso in questi giorni, quello che indaga sulla trattativa presunta Stato-mafia, vale a dire Antonio Ingroia, due pagine di intervista a Ingroia, titolo Berlusconi è una vittima della mafia. Poi prendete Il Fatto Quotidiano, titolo di prima pagina, vi racconto i misteri dei boss Graviano. Due pagine, due tre, parla l'uomo che negli anni delle stragi curò la latitanza dei Graviano a Milano. Si tratta di Salvatore Baiardo, un ex riciclatore dei Graviano, che dice vi racconto gli affari di Graviano e la villa di Berlusconi in Sardegna e la mafia. Ecco, queste le due pagine. Da una parte Berlusconi è vittima della mafia su Libero, mentre Il Fatto Quotidiano attacca nuove rivelazioni sulle presunte collusioni tra la mafia e Berlusconi. Tra due giorni la Lega dovrebbe decidere chi sarà il nuovo leader, si presume Roberto Maroni, ma insomma ne vogliamo parlare di questo e di altro, di attualità politica, con il sindaco di Verona, Flavio Tosi, della Lega. Buongiorno sindaco. Sì, buongiorno a voi. È questo il futuro immediato della Lega, scegliere Roberto Maroni come nuovo leader? Beh, direi di sì, penso che sia la cosa migliore con quello che è successo, con quello che è stato questi ultimi mesi, queste vicende, serviva una svolta a far capire che le cose sono cambiate. Sicuramente la figura di Roberto Maroni è la più idonea da questo punto di vista. Ormai oggi per esempio raccontano su Il Fatto Quotidiano che Umberto Bossi abbia addirittura detto non sarò più segretario, quindi togliete già la targa dalla porta. Insomma, che Umberto Bossi si ricandidi e che avanzi la propria candidatura, secondo lei è da escludere? Ma direi assolutamente di sì, ma per il fatto che essendosi anche dimesso da segretario per cercare di proteggere la Lega da quella serie di situazioni che sono accadute, perché è chiaro che si è dimesso da segretario quando è stato coinvolto lui e la sua famiglia, si è dimesso per di fatto proteggere la Lega, quindi troverei strana la sua ricandidatura, ma ripeto, da come si sta esprimendo Umberto Bossi mi pare che abbia tutta l'intenzione di sostenere e condividere la candidatura di Maroni. Ma quello che lei definisce tutto quello che è stato, insomma, le vicende note, tra l'altro è emerso anche ieri, addirittura sarebbero 24.000 euro per anche i vestiti di Umberto Bossi, lei una parola definitiva se l'è data di quello che è successo? Ma semplicemente che per la malattia di Bossi e quindi per il fatto che non riusciva più a controllare tutto, Bossi fino alla malattia era sempre presente ovunque e aveva veramente la situazione in pugno a livello politico e a livello di gestione del movimento. Dopo la malattia la cosa invece, lui è dovuto per tante cose dipendere da altri e queste altre persone dalle quali dipendeva, spesso anziché fare il bene suo e il bene del movimento, hanno provato provato ad approfittarne. Ed è durata finché è durata, ma perché nessuno è riuscito a fermare questa cosa? Cioè l'idea di Bossi controllato da un cerchio, quel famoso cerchio magico di cui si parlava, cioè la Lega è un movimento molto ampio, nessuno è riuscito a dire guardate che così non va bene. Perché Bossi c'è un rispetto, un affetto, una riconoscenza da parte di tutti i leghisti, di tutti noi, che derivano da quello che lui ha fatto per la Lega. Sappiamo tutti che la Lega l'ha costruita lui, l'ha fatta crescere lui, si è sacrificato per la Lega, perché anche la malattia che ha avuto è stata per il tipo di vita che conduceva, ma era una vitaccia che ha pagato un prezzo altissimo proprio per la sua passione politica. E quindi per questo affetto fortissimo che c'è nei suoi confronti, nessuno ha mai messo in discussione quella situazione per rispetto suo. Mi dica solo una cosa, poi parliamo d'altro invece. Che direbbe se potesse a Renzo Bossi, il trota, se lei l'avesse di fronte, che gli direbbe? Ma guardi, il fatto che si sia dimesso da consigliere regionale alla fine ha parzialmente rimediato ai guai che ha combinato al movimento, perché ha rinunciato completamente al ruolo istituzionale, e questa è una scelta che non è da tutti, insomma, non tanti, ma basta pensare alla Rosi Mauro. La Rosi Mauro ha detto: beh, io me ne sto qua, fate quello che vi pare. Lei invece non le piace questo atteggiamento? Renzo Bossi almeno ha avuto un sussulto, come chiamarlo, di dignità, insomma, voglio dire. Beh, diciamo che ha avuto la serietà di comprendere la situazione e i guai che ne potevano derivare al movimento, mentre invece Rosi Mauro proprio se ne è fregata altamente. Ma ci sarà Rosi Mauro, secondo lei? Si presenta domenica ad Assago, quando c'è sabato? Magari si presentasse, ci sarebbe un'accoglienza calorosissima. Vabbè, ma ironia a parte, è iscritta alla Lega? No, è vero, è stata espulsa. No, è stata espulsa, però è stata fa parte, espulsa. Quindi non, in teoria formalmente potrebbe anche, non, però nel SIMPA, nel sindacato padano. Beh, ma adesso comunque non se ne occupa ovviamente di più lei, perché cioè ha diritto a presentarsi o no, visto che no, in no, non ha diritto a presentarsi in quanto non più militante della Lega. Ah, quindi non ha diritto, perfetto, quindi credo non lo faccia. Le faccio fare un'intrusione sulle cose lombarde, visto che Maroni è intervenuto dicendo vedremo se sostenere Formigoni. A lei, leggendo quello che c'è sui giornali, anche se Formigoni dice io non sono indagato, non ho ricevuto nulla, ma le dà fastidio o no che la Lega appoggi la maggioranza di Formigoni in Lombardia? Ma bisogna vedere quando ci sarà qualcosa di chiaro a livello di carte processuali, perché per adesso si sa che magari ci possono essere delle cose poco opportune, questi viaggi, tutto questo lusso, queste cose che appunto quantomeno hanno il carattere dell'inopportunità. Dopodiché fino adesso non è emerso il passaggio che ci sia stato un beneficio reciproco illegittimo o illegale, e quindi che qualcuno sia stato beneficiato irregolarmente dall'attività amministrativa, ecco. Manca questo elemento, che è quello poi fondamentale per valutare la tenuta della maggioranza stessa. Quindi per ora sì, per ora va bene. Per ora, ripeto, per ora c'è l'unica cosa che è emersa è una serie di fatti poco opportuni dal punto di vista di quello che è anche il penso che il cittadino, insomma, non è che approvi particolarmente di vedere vacanze di quel tipo, soprattutto perché sono comunque paio regalate, insomma, poi se uno con i suoi soldi può fare quello che vuole, però visto che sembrano essere state generosamente regalate, insomma, c'è un aspetto di inopportunità, però per ora c'è solo questo. Una questione invece sul sostegno a Monti. Sa che c'è un vertice, come sa, molto importante, il Consiglio Europeo, la Lega è contro il governo Monti, ma non è il caso invece di sostenerlo in questo momento, dire in nome della unità, in nome dell'importanza del momento storico? capito, ma il problema è che il momento storico imporrebbe di fare alcune scelte che sono quelle della riduzione vera della spesa pubblica e del debito pubblico, ed è la cosa che secondo me Mario Monti, insieme alla manovra dolorosissima che ha fatto, almeno avesse fatto quello, avrebbe dato un senso all'azione del governo. E invece in termini di riduzione della spesa pubblica è stato fatto nulla, e adesso anche quando si parla di spending review si parla di cifre di 6-7 miliardi, sì, che è assolutamente ridicolo. Cioè, non abbiamo una spesa pubblica di 800, un debito di 1930, credo ormai. Quasi 2000 ormai, mi sa, 2000 miliardi. Quindi se uno pensa di salvare la baracca recuperando 7 miliardi, cioè serve qualcosa di molto più forte, di molto più coraggioso, ed è per questo che non sosteniamo Mario Monti, perché purtroppo, lo dico veramente ahimè, non fa quello che dovrebbe fare. Mi dica l'ultima cosa allora, su questo dibattito si vuole buttare anche lei sul lavoro, se è un diritto oppure no. In realtà il ministro Fornero, che io ho difeso di rassegna stampa, ha detto il posto di lavoro è una cosa da conquistare, non è un diritto, non il lavoro in sé. Ma lei l'ha letta questa polemica che tira in ballo la Costituzione, il diritto al lavoro? È che quello è diventato un aspetto quasi marginale, secondo me, perché rispetto al tema che dicevo prima, che è il vero problema ed è quello che può generare posti di lavoro, perché se tu riduci la spesa pubblica, il debito pubblico, riduci poi alla fine la pressione fiscale e quindi riesci a far partire la crescita e quindi creare posti di lavoro, eccetera. Il problema vero, al di là di quelle che sono le norme intorno al mondo del lavoro, oggi posti di lavoro non ce n'è, c'è una disoccupazione giovanile fortissima, il precariato è quasi assoluto, quindi il posto di lavoro per le nuove leve da anni ormai è la precarietà totale, quindi si rischia di litigare sul nulla, perché il problema ormai è ben altro. La ringrazio, buona giornata. Per grazie essere stato lei, con noi il lavoro. Sindaco di Verona Flavio Tosi della Lega Nord ci ha parlato, insomma, della questione Bossi. Noi dopo la pubblicità e il meteo avremo, intanto parleremo, ve lo dico, in chiusura di trasmissione oggi in maniera eccezionale, parliamo anche di questa attesa Italia-Germania, ci collegheremo con il nostro Carlo Genta, perché Italia-Germania, la partita delle semifinali europei che Radio 24 seguirà anche in diretta. Ma poi prima, subito dopo 3 minuti di pausa pubblicitaria, avremo il senatore questore, uno dei tre questori, cioè quelli che controllano i conti del Senato, Cicolani del Popolo della Libertà, che è colui che aveva coinvolto l'ex sindaco di Palermo Diego Cammarata per una consulenza che poi è saltata, perché Cammarata ha detto rinuncia a questa consulenza, una consulenza affidata all'ex sindaco di Palermo, e tutti hanno detto ma come, quello che aveva fatto il buco a Palermo di Conti viene chiamato per razionalizzare la spesa degli enti al Senato. Giammai, non si può. Senatore Cicolani, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, dobbiamo chiarire un po' di cose su questa vicenda Cammarata, che oggi ha preso carta e penna, l'ex sindaco di Palermo, e ha scritto al Corriere della Sera dicendo rinunzio alla... Come dobbiamo definire una consulenza, è giusto, senatore? Consulenza? Ma ha un lavoro, perché un lavoro. Lui è comandato, non è che è un consulente, è comandato presso la mia segreteria sostanzialmente. Cioè, allora spieghiamo intanto cosa ha scritto Cammarata. Ha rinunciato a questo incarico? Al comando, rientra nel Ministero della Pubblica. Perfetto, scrive Cammarata: ho dato la mia disponibilità al senatore Cicolani, cioè a lei, di fare una ricerca su liberalizzazione e privatizzazione dei servizi pubblici locali. A tale comando ho già comunque rinunciato, non tanto perché credo che questa vicenda abbia qualcosa di ragionevole, tantomeno perché intendo cedere a pressioni di alcun tipo, ma francamente non credo sia il caso di passare per uno a cui si sta facendo un favore e far passare altri per quelli che me lo stanno facendo. Allora, la vicenda è questa, che era deflagrata sui giornali, senatore. Diego Cammarata, il sindaco che, anche se lui contesta tutti i dati, ha lasciato Palermo, ha dovuto lasciare Palermo con, per qualcuno, un dissesto finanziario, era stato comandato da lei nella sua segreteria per venire a dare una consulenza sui conti. Non è proprio così. È simile alla verità, ma non è simile. La verità. Dopo che non era più sindaco di Palermo, sostanzialmente, Io che conoscevo Diego da molto tempo, l'ho incontrato e in quell'occasione, lui è che è un ottimo avvocato, che ha un'esperienza parlamentare, sì, e un'esperienza grande da amministratore di una grande città, adesso a me... È perché questo è il punto, grande esperienza per qualcuno è un'esperienza fallimentare. Ma io, guardi, su questo io non voglio entrare, mi faccio spiegare, poi ritorneremo anche sì, su questo. A me serviva un esperto di diritto, un esperto giuridico, e il fatto che avesse esperienza di diritto amministrativo, di amministrazione vissuta sul campo e parlamentare non poteva che essere ad adiuvandum in questo, per sostegno, supporto di ricerca legislativa per tutte le decisioni che da questori siamo chiamati a prendere. Ma non c'è non c'è un funzionario alla Camera che fa questo, un esperto di diritto? Certo che ci sono, però esistono anche dei rapporti estremamente fiduciari, no? Cioè ci sono delle questioni anche relative a impostazioni politiche, per questo esistono questi profili all'interno delle piante organiche, se no non ci sarebbe aveva bisogno di un uomo di fiducia, un uomo che lei conosceva. Ma una persona di fiducia e qualificato, non una segretaria che mi prendesse gli appuntamenti o mi gestisce. E siccome Cammarata è dipendente, credo, del Ministero della Pubblica Istruzione, della pubblica istruzione. Un comando senza aggravio, diciamo complessivamente, nei costi dello Stato, perché lui prendeva lo stesso stipendio che avrebbe preso da professore, diciamo così. Beh, come consulenza avrà avuto un qualcosa in più, forse. No, non è un consulente, è comandante, è un posto di lavoro. Gli avevo nel mio budget, gli avevo dato qualcosina in più, ma stiamo parlando sotto le 1.000 euro netti al mese, perché ovviamente da Palermo doveva stare a Roma almeno 10-12 giorni alla settimana, al mese, quindi un fondo spese che non gli bastava sicuramente, se non fosse per la sua passione politica, non era certo per soldi che faceva questa cosa, ecco, questo lo voglio chiarire. Per quello che riguarda poi la cosa di Cammarata come sindaco di Palermo, ma io credo che il comune di Palermo sia un comune complesso. Noi leggiamo che Parma c'ha un buco di 600 milioni, io adesso non so quanto sia il buco di Palermo, ma non è un comune, mi pare, in dissesto finanziario. Il comune in dissesto finanziario è un comune che porta sostanzialmente, tra virgolette, i libri in tribunale e che nomina un commissario per la gestione del bilancio. Ma guardi, però, senatore... Non mi pare che il Palermo sia in queste condizioni. Ma articoli di giornali raccontano altre cose. Questa è la verità, mi perdoni. Roma, dopo le gestioni Rutelli-Veltroni, ha un commissario del governo per gestire il debito. Sì. Roma è stato un esempio di pessima amministrazione dal punto di vista del bilancio. È acclarato con un debito con che era stato stimato dell'ordine dei 20 miliardi. No, però senatore, molta gente, non so, forse ha ironizzato, o gli molti giornalisti hanno scritto questo. In ogni caso, molti giornalisti non interessava affatto. No, però il lavoro che doveva fare per me è un lavoro legato alla sua professione di avvocato. Ma questo sì, però si fermi, senatore. Molti hanno scritto, ma come uno che ha avuto. Cioè, ci sono dei problemi finanziari a Palermo. Adesso non giochiamo sul fatto dissesto o non dissesto. Una persona che si è dovuto dimettere prima del termine del suo mandato, per anche tra mille polemiche, viene chiamato per gestire e fare una consulenza. Non dice niente, fa una ricerca legislativa. Ma cosa dice? Ho capito, ma una persona, fa una ricerca legislativa all'interno di una segreteria, ma fa un lavoro. Ma verrebbe da dire con quale competenza. Ma perché dice scusi, che gestisce? Senatore, gestisce, vabbè, ho sbagliato a gestire. Scusa, secondo me, che cosa gestisce? Va bene, cancelli la parola gestisce. Fa un lavoro per la sua segreteria su elementi per i quali, secondo molti, ha fallito nel suo comune. Ma un avvocato non sa fare una ricerca legislativa? Mi scusi, non è che deve prendere delle decisioni. Sì, però lei ha detto, l'ho chiamato perché ha avuto una grande esperienza nell'ambito di un'amministrazione. Certo. E per molti quell'esperienza è proprio il motivo per cui nessuno lo dovrebbe chiamare più. Mi scusi, perché, è stata ma, una. Ma lei, ma stiamo, oltretutto, stiamo parlando di una persona che ha un curriculum specchiato, non ha aspetti penali di nessun tipo, non ha cause civili di nessun tipo, quindi di una persona specchiata che in questa vicenda si sta comportando diciamo con un atto di generosità nei confronti di chi ha inteso dargli fiducia, perché le sue dimissioni, siccome la sua nomina è totalmente lecita, totalmente legittima, nel merito, nella sostanza e nella forma, sì, è la sua dimissione, è un atto di generosità nei confronti di chi ha voluto dargli fiducia. Questo è l'uomo Diego Cammarata. Cioè non voleva metterla in difficoltà. Nei confronti del quale non si può che esprimere apprezzamento umano. E io, sebbene per pochissimo tempo, perché la sua collaborazione è iniziata a marzo, quindi non sono che pochi mesi, insomma, non si è, diciamo, potuta nemmeno esplicare per come l'avevamo congegnata, perché è agli inizi, diciamo così, no? La collaborazione. Quindi per quel poco che io non era affatto deludente come ma nessuno contesta il fatto che potesse lavorare bene. Molti dicono, siccome non ha lavorato benissimo a Palermo, chiamarlo per lavorare su un tema a me, se non concesso che quello che dice lei o quello che dicono i suoi avversari politici, poi perché lui ha fatto il sindaco 10 anni e dopo 5 anni è stato rieletto anche con generosità dagli elettori, quindi no, questo commento, dare per scontato questo fatto, mi sembra che vuole che gli avversari politici dicano quanto ma no, è bravo, ma anche i cronisti, guarda che anche molti cronisti hanno raccontato ma le chiedo, cos'è stato questo, un furore demagogico dell'anticasta che ha portato a questa vicenda? Ma allora, secondo me, intanto disinformazione, perché ripeto, lui lavora come dipendente statale all'interno di una segreteria, fornendo supporto tecnico a questa segreteria, non è che è stato messo qua, qualcuno ha detto, per fare la spending review. Ci mancherebbe, la responsabilità della spending review del governo, dello Stato, spetta al governo, e del Senato spetta al Collegio dei Questori e al Consiglio di Presidenza del Senato. Però avvalendosi anche del contributo di Diego Cammarata, visto che lei l'ha chiamato. Uno di questi questori nella ricerca legislativa, quindi che posso dire, quando si fanno i nuovi regolamenti a me interessa che siano... faccio delle ricerche sulle sentenze della Corte Costituzionale per vedere se stiamo approvando norme o stiamo proponendo norme in contrasto magari con sentenze già emesse diritti quesiti, per esempio, cose di questo tipo. Ecco, in questo dà un supporto tecnico. Adesso che un fior d'avvocato che abbia esperienza parlamentare, esperienza amministrativa, non sia in grado di fare una ricerca. Ma questo sì, sa cosa? Che ci sono fior d'avvocati, immagino, anche che lavorano lì al Senato e di cui lei poteva avvalersi. Ma l'amministrazione è un conto e la politica è un altro, no? Io nelle scelte posso fare scelte diverse da quelle che vengono proposte. Scelte che però sono state criticate per questo, dice, con tanto di fior di dirigenti che ci saranno. Ma devono criticare me per queste scelte. Che c'entra? Che lui fa parte di un percorso endoprocedimentale, cosiddetto, no? Ma cosa interessa alla gente se io mi avvalgo di Tizio o di Caio per darmi delle carte che poi sono carte oggettive? Endoprocedimentale è bellissima, mi permetta. Endoprocedimentale, cioè una procedura interna, no? Ha tutto un percorso per arrivare ad essere tale decisione. Uno giudica la decisione, mica giudica il percorso che ha portato a quella decisione. Senta, mi dica l'ultima cosa, senatore. Lei è disposto a lavorare di notte a Ferragosto su questa storia delle ferie? Cioè, c'è tanto. Guardi, posso dire anche tanto paraculismo. Adesso molti dicono: siamo disposti a lavorare 24 ore al giorno e di notte a Ferragosto. Ma... Guardi, io lei qui mi ha telefonato, mi ha trovato alle 8:15, io sto qui da tutte le mattine. È vero, possiamo dirlo. Lei l'abbiamo chiamata al Senato, all'ufficio, è lì. Quindi è questo sul posto di lavoro. Basta chiedere anche alle persone che lavorano in Senato. Ma non è questo, io l'anno scorso, ma non io, tutti i membri della Commissione Bilancio del Senato, siamo andati, l'ultimo giorno di lavoro che abbiamo fatto è l'11 di agosto, quando Tremonti annunciò la riforma costituzionale del pareggio di bilancio, non so se vi ricordate, alla sala della E avete ripreso? E abbiamo ripreso il 19 agosto, quando abbiamo esaminato il decreto, diciamo così, anche quello era il secondo dopo quello di luglio, il decreto correttivo che andava in Europa, e lo approvammo, se vi ricordate, i primi di settembre. Quindi c'è demagogia su questo, dice. Ma io come Commissione Bilancio, anche in notturna, fino a mezzanotte, abbiamo cominciato a lavorare dal 19 agosto, sabati e domenica. No, vabbè, quindi insomma c'è un po' di... Non è un fatto così straordinario, certamente, i lavori vanno razionalizzati, è giusto che ci sia una possibilità di programmare le ferie, per i parlamentari come per tutti i cittadini. Va bene, la ringrazio, senatore, devo chiudere. Grazie per essere stato con noi, davvero. Il senatore Cicolani, uno dei tre questori del Senato, che ci ha spiegato perché la scelta di Cammarata, che poi però lo stesso Cammarata si è sentito di rinunciare a questo comando. Carlo Genta, sei a Varsavia? Sì. Indovina dove sono, Carlo. No, adesso, prima ti devo fare un quiz. Che cosa vuol dire, secondo te, la parola endoprocedimentale? Endoprocedimentale. All'interno di un procedimento. Ma se avesse straordinario, guarda, la cultura umanistica di Carlo Genta. Poco fa il senatore Cicolani ci ha detto che aveva scelto l'ex sindaco di Palermo, Diego Cammarata, come consulente, che ha rinunciato, cose che non ti interessano, perché è stata una scelta endoprocedimentale. Dove sei, Carlo? Abbiamo studiato legge mica per niente. Infatti. E allora, dove sei? A Varsavia, ovviamente. No, indovina dove sono, ti faccio io un quiz adesso. Beh, non allo stadio, spero per te, perché... Sono sul campo dello stadio. È fantastica questa cosa. Sei sul Sono sul campo. Sul campo. Pitch. Tocchi l'erba. Proprio sul campo. No, sì, tocco l'erba. Ho dovuto qui corrompere un sorvegliante, però tanto adesso non c'è ancora nessuno. Io sono arrivato molto presto qui allo stadio. Direi abbastanza. Per prendere posto, e c'è un omone che mi guarda non benissimo. C'è quelle 12 ore di anticipo per Carlo Genta, no? Sì, ma perché devo vivermi tutto prepartita, insomma. Comunque sono sul campo di questo stadio, molto bello, devo dirti. Seggiolini bianchi e rossi all'interno, scacchi bianchi e rossi all'esterno, siamo in Polonia, siamo a Varsavia e c'è anche un bellissimo sole, devo dire, si sta veramente bene. Adesso non resta che aspettare queste 12 ore per vedere quelli veri su questo campo che io sto calpestando in questo momento. Spero che passi qualcuno a darti, a rifocillarti, perché 12 ore lì dentro, insomma, quando è duro, non lo so, però... Comunque, insomma, poi vediamo. Insomma, avete capito che stasera c'è la partita Italia-Germania, la semifinale con tutti i ricorsi. Ma ti piacciono questi corsi, i ricorsi storici, la TV che fa vedere Italia-Germania 4-3? A me sembra un po' due palle così. Mi hanno rotto le scatole. Sinceramente, se devo fare il nazionale popolare, ti dico che sono bellissime, che Italia-Germania 4-3 la guardo tutti i giorni. In realtà basta perché... io per predilezione, guardare avanti e non indietro, insomma, non mi piace tanto guardare questi corsi e ricorsi, non mi piace, anche se nel caso la Caramazia conta tantissimo e la Germania ha paura e non ha paura e manca solo a Maniti, no? Però voglio dire, sarà un'altra partita, è una Germania fortissima, è chiaro che la tradizione fa un po' nel calcio, le contano, però conterà di più questi 90 o 120 minuti che siano, conterà di più senz'altro aver recuperato tutti i nostri giocatori, ed è un dato di fatto. Conterà buttarla dentro, cosa che non ci riesce benissimo a differenza dei tedeschi, insomma contano molto di più questi fattori oggi che non Italia-Germania 4-3 sinceramente. Allora, che cosa dobbiamo dire, qualcosa che si può dire sulla formazione già, che sai che molti ci seguono, dicono, vogliono sapere, gioca Diamanti, gioca Cassano, gioca, che succede? Adesso lo chiamo gli steward che giocano, al di là, ho visto anche pochissimi italiani, se devo dire la verità. Non ho ancora trovato un italiano da sera né in centro né in alcun luogo, neanche il ministro Fornero, magari lei verrà, gli altri magari meno. Però poi vado a fare un Intanto ogni tanto cosa fai? Stai entrando nelle spogliatoie, che ogni tanto ti perdiamo con il cellulare, no? Devo andare in bagno un attimo. Quello degli spogliatoi. Stai fermo un attimo, ancora un minuto. Allora, sulla formazione, no, ma c'è qualche... No, la formazione io credo che sarà molto molto simile, per non dire identica, a quella che ha giocato, che ha distrutto l'Inghilterra, che ha preso a serlo nell'Inghilterra l'altra sera. C'è ovviamente questo dubbio, rientrano dunque Abate, De Rossi ha detto troppo importante questa partita per dar peso, per dar retta a qualche dolorino, perché se sei un giocatore vero queste partite le giochi, se sono in piedi anche legato con lo spago, e De Rossi è un giocatore vero. C'è questo interrogativo Diamanti Cassano ha la lingua forte, tempo, è rientrato, ha giocato sempre, eccetera. È chiaro che sia stata la partita più importante. Io credo che vedremo Antonio Cassano dal primo minuto stasera, e Prandelli poi ieri ha detto sarebbe offensivo valutarlo in funzione a tempo, però è chiaro che 90 minuti non ce li ha, quindi credo che partirà Cassano Cassano, e poi quando la lingua strofinerà il prato su che io sto calpestando, la lingua di Cassano naturalmente, vedremo alzarsi Diamanti o chissà Giovinco, di cui si sta parlando pochissimo, pure in quel anche quel lui un'arma possibile. Grazie Carlo, ovviamente ti ritroveremo nel corso della giornata e poi stasera dallo stadio di Varsavia, Italia-Germania. Grazie a Carlo Genta, speriamo sia una partita io non mi esce dalla testa, endoprocedimentale, questo era stata la scelta. Dobbiamo fare un hashtag su Twitter, endoprocedimentale. Allora, grazie a tutti, Alessandro Longoni in redazione con Elisabetta Fusconi, il nostro Carmelo Lauricella in regia, e siamo su Twitter per l'appunto @24mattino, oppure ci sono anch'io, @AlinoMilan, siamo anche su Facebook, così 24mattino. A proposito, Bersani ha detto che finisce 2-0, ho avuto una visione Italia-Germania 2-0, ma perché non gli dicono queste cose, non si devono mai dire, Bersani? Chissà, a domani.